L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio e ben ritrovati per questa puntata per la quale abbiamo preso le mosse da un incontro che si è tenuto recentemente al Collegio San Carlo di Milano. Un incontro, possiamo dire, di formazione alimentare per gli studenti di quella scuola, organizzato dalla Fondazione Veronesi. Un incontro in cui si è parlato di piramide alimentare, di scelta dei cibi, di nutrienti, di cottura, fino ad arrivare alle mense e alla preparazione degli alimenti per le mense. E qui abbiamo conosciuto, perché da cosa nasce cosa, un'azienda che per prima in Italia propone la cottura sottovuoto e alla fine siamo andati a visitarla. Ma andiamo con ordine e cominciamo a conoscere il progetto della Fondazione Veronesi per le scuole con Armando Perez, che presiede la Commissione Turismo del OECD, che è l'Organizzazione per la Cooperazione Economica e lo Sviluppo, ma che è anche consigliere della Fondazione Veronesi. Portate nelle scuole questo discorso, al di là ovviamente di questa occasione specifica qui al collegio? Sì, indubbiamente la diffusione della conoscenza e della scienza, ecco, questo è uno dei... Si dice purtroppo che l'Italia è un paese che è antiscientifico a volte, Beh, ha un po' di ritrosia rispetto. Sì, beh, un po' tutto l'Occidente in questo momento ha fatto qualche passo indietro, insomma c'è molta confusione, troppa informazione, spesso in contraddizione l'una con l'altra. Quello che la Fondazione Umberto Veronesi fa è quello, come dice il suo payoff è per il progresso della scienza, che da un lato ovviamente questo avviene attraverso il finanziamento di borse di studio in numero molto importante, perché vengono finanziate quasi 200 borse di studio all'anno tra i migliori ricercatori, prevalentemente sulla ricerca, diciamo così, di tipo oncologico, che è un po' nelle corde evidentemente della fondazione, e dall'altra parte invece è la diffusione della conoscenza, della scienza. E insegnare ai giovani, insegnare alla società civile, perché anche a tutto quel mondo che poi è quello che determina le regole, come ad esempio il mondo dell'economia, della politica, delle amministrazioni locali, cioè cercare di portare la conoscenza in maniera tale che poi la società civile capisca di che cosa si sta parlando. E ovviamente la scienza, come non solo la scienza della ricerca medica, ma un po' tutte le scienze, con il progredire arrivano a dei livelli di complessità dove non è facilissimo ed immediato poterne parlare in maniera approfondita ed adeguata. E con la salute c'è la fortuna che, portando soprattutto questo tipo di conoscenze nelle scuole, si può parlare appunto di quello che la scienza oggi mette a nostra disposizione, cioè la conoscenza che la relazione tra la salute, l'alimentazione, gli stili di vita, l'inquinamento, l'ambiente, eccetera, sono dei rapporti complessi ma assolutamente, come dire, abbastanza noti, percepibili, percepiti, e quindi è importante che i giovani comincino a capire queste differenze, come i comportamenti che possono essere appresi fin dall'inizio possono poi modificare in maniera sensibile la qualità della vita in termini di risposta alle malattie, a evitare di poterle avere, a ritardarne la comparsa, a migliorare proprio lo stile della qualità della vita. Ed magari anche a stare attente da quelle bufale che circolano ormai su internet, sì, no? Di cose che si sentono, cioè avere un approccio scientifico, essere formati a scuola, avere dei riferimenti, magari alzi la mano e chiedi direttamente, esatto. Può... Questo evidentemente senza bisogno di essere talebani e, come dire, bacchettoni o cose del genere, c'è da imparare come ci si deve comportare, soprattutto per difendere il nostro corpo, per avere rispetto del nostro corpo. Una macchina con la quale noi dobbiamo fare i conti il più lungo possibile, no? Per tutta la vita, quindi si è visto che imparare il più presto possibile a comportarsi in maniera adeguata, quindi a mangiare bene, a non mangiare troppo, le grandi malattie oggi sono determinate da comportamenti come ad esempio questa diffusione del bere, superalcolici nei giovani, il fumo, una battaglia che la Fondazione Veronesi fa da tantissimi anni, il mangiare in quantità adeguata, perché l'obesità è diventato uno dei problemi più importanti dell'Occidente, no? Quindi anche questo è una fonte di disfunzioni, di malattie molto importante. E poi sul distinguere tra i diversi cibi, ci sono evidentemente la necessità di mangiare più frutta e verdura, di diminuire l'uso della carne. È anche un segno di civiltà, insomma, con i problemi enormi che ci sono nella disponibilità di acqua, uno dei problemi che il mondo affronta e che dovrà affrontare sempre di più, e uno dei più grossi consumi di acqua che oggi avviene è quello legato alla produzione, cioè all'allevamento di bestiame, alla produzione di alimenti, di carne di questo tipo. Quindi produrre un chilo di manzo è enormemente più oneroso sotto il profilo del consumo di acqua di quanto non lo sia per qualsiasi tipo di frutta e verdura o di piante di questo tipo. Quindi insomma questi sono i temi, e quindi la Fondazione Veronesi ha scelto tra l'altro dei partner con i quali poi affrontare questo, dei partner come dire che sono poi produttori o che comunque entrano nel ciclo di produzione e di distribuzione di questo tipo di cose, e quindi con questi cerca di portare le migliori conoscenze nella vita di tutti i giorni. Ad esempio, lo citavo nel mio intervento questa mattina, ci sono due momenti nelle scuole, ma penso nelle aziende, che è esattamente la stessa cosa, no? Cosa che noi facciamo anche questo tipo di conferenze nelle aziende, che sono le cosiddette macchinette del caffè, delle merendine, eccetera, da un lato, e dall'altra le mense. Spesso nelle grandi aziende dove ci è capitato di andare ci sono dei manuali, dei contratti con i fornitori che sono di moltissime pagine, ma che riguardano problematiche completamente diverse, mentre poco è dedicato al controllo della qualità dei cibi, delle bevande che vengono messe in vendita, così come anche nelle mense. Quindi ecco, invece questo è importante, molto molto, perché spesso queste macchinette contengono delle cose che sono esattamente l'incontrario di tutto quello che abbiamo detto fino adesso, e lo stesso spesso anche per le mense. Non basta che sia solo controllato l'aspetto igienico, bisogna guardare i contenuti organolettici, le cotture, eccetera eccetera, diverse cose, e ci sono, e noi cerchiamo di diffondere, ci sono una serie di, c'è una differenza insomma tra i diversi fornitori. E così Armando Peres, ricordiamo che è consigliere della Fondazione Veronesi, ci ha introdotto il tema delle mense e del cibo che si consuma a scuola o sul posto di lavoro, ma prima di arrivare a quello sentiamo le due formatrici che hanno animato l'incontro al San Carlo. Ascolteremo prima Chiara Segre, che è biologa responsabile della supervisione scientifica della Fondazione, e a lei abbiamo chiesto di illustrarci, così come aveva fatto poco prima con i ragazzi, la differenza tra nutrigenomica e nutrigenetica. Non solo perché indicano cose diverse, ma perché soprattutto nel caso della nutrigenomica circola un po' troppo a sproposito, al punto da abbindolarci, quindi è meglio fare chiarezza. Allora, sono entrambe due branche della scienza dell'alimentazione che studiano la relazione tra cibo e geni, quindi tra le molecole dei nutrienti e il DNA. Però sono un po' due facce diverse dello stesso aspetto, perché la nutrigenetica studia come i singoli DNA, quindi le singole variabilità che ognuno di noi ha nel proprio DNA rispetto all'altro, influenzano il modo in cui noi rispondiamo ai cibi, come li metabolizziamo, come reagiamo alle molecole presenti nei cibi. Un esempio classico è quello dell'alcol deidrogenasi, che è uno degli enzimi che degrada l'etanolo nel fegato, quindi inattiva la molecola dell'etanolo, che è tossica. Ci sono a livello del nostro DNA delle piccolissime differenze all'interno di ognuno di noi che possono determinare ad esempio il modo in cui ognuno di noi risponde all'alcol. Chi regge meglio, chi regge meno bene, è perché la velocità del proprio enzima nel digerire l'etanolo è diversa, può essere più lento, più veloce. Perché? Perché il nostro DNA, ad esempio quello che fa le istruzioni per l'alcol deidrogenasi per questo enzima, è leggermente diverso. Questo è uno degli esempi che ci fanno capire che cos'è la nutrigenetica. La nutrigenomica in qualche modo studia l'opposto, cioè come i cibi influenzano il nostro DNA. Quindi nutrigenetica, come noi rispondiamo. Già ci dice che è possibile influenzarli almeno in una certa parte. Certo, non nel senso che le molecole dei cibi vanno a cambiare le lettere all'interno del nostro DNA, ma ne possono cambiare il modo con cui noi le leggiamo, con cui le nostre cellule leggono il DNA e quindi si comportano di conseguenza. Un esempio di nutrigenomica è ad esempio studiare come un acido grasso può dire alla cellula che tipo di DNA leggere, oppure come cambiare le modifiche che avvengono sul nostro DNA e che quindi a sua volta determinano come la cellula si comporterà. Quindi questo è valido però per tutti. Se io inserisco questo, diciamo, acido grasso, non so cosa dicevamo prima, l'effetto che ho è uguale per tutte le persone sul DNA di tutti? Ottima domanda. In generale sì, poi perché ricordiamoci che siamo ancora all'inizio della disciplina. In generale si vogliono studiare con la nutrigenomica dei meccanismi generali che possono valere a grandi linee per tutte le persone. Quindi l'acido grasso che lega una tal proteina e quindi modifica il DNA, è probabile che lo faccia in tutte le persone. Io mi aspetterò anche dagli successivi studi della nutrigenomica che anche all'interno di questo meccanismo generale che vale per tutti ci possano essere delle differenze individuali, perché comunque questi due aspetti, quello che viene studiato dalla nutrigenomica e quello che viene studiato dalla nutrigenetica, sicuramente si influenzano a vicenda. Come? Non lo sappiamo ancora. Per cui è tutto un meccanismo che si parla, ecco. È proprio una sorta di ping pong tra il DNA e i cibi. Si influenzano reciprocamente. Il cibo può influenzare il nostro DNA, ma anche il nostro DNA, per come è fatto, reagisce in maniera diversa ai cibi. Quindi ricordiamoci che la nutrigenomica è una disciplina, ma che è ancora in elaborazione, non è definita e chiara per sempre. Ringraziamo Chiara Segre della Fondazione Veronesi, ci ritroviamo tra pochissimo. Radio24.it è sempre con te, anche in viaggio. Consulta la mappa del traffico aggiornata in tempo reale. Potrai conoscere la viabilità del luogo in cui ti trovi e avere tutte le info su code, cantieri e altre criticità. Clicca su Mappa e scopri il nuovo servizio su radio24.it. Radio 24. La passione si sente anche in viaggio. L'altro pianeta. Ed eccoci di nuovo insieme da Laura Bettini, ancora un ben ritrovati per questa puntata per la quale abbiamo preso spunto da un incontro, lo ripetiamo, che si è tenuto al Collegio San Carlo di Milano per la formazione degli studenti in campo alimentare, un incontro organizzato dalla Fondazione Umberto Veronesi che si sta spendendo molto in questo campo, perché dall'alimentazione passa anche la prevenzione di diverse malattie. Sentiamo a questo punto Elena Dogliotti, biologa nutrizionista, ricercatrice e divulgatrice della Fondazione, che ai ragazzi ha presentato la piramide alimentare mediterranea, che ha alla base cereali, frutta e verdura da consumare quotidianamente e al vertice la carne rossa da consumare saltuariamente, con le novità del 2016, tra cui per esempio il suggerimento di mangiare in compagnia. Ma la Dogliotti ha anche dato dei suggerimenti per la cottura dei cibi. La cottura è molto importante, sia che ci sia sia che non ci sia, a seconda del cibo che andiamo a considerare. Per esempio, nella maggior parte delle verdure, no, in cui abbiamo vitamine, sali minerali, appunto queste molecole bioattive, meno cuociamo meglio è, perché così rimangono intatte. Il calore spesso inattiva o comunque diminuisce il potenziale benefico di queste molecole, per cui meno cuociamo meglio è, per cui andrà bene una cottura al vapore, quindi con temperature un pochino più basse e in cui non vengono persi sali minerali, anche banalmente, che sono comunque micronutrienti nell'acqua. Se io faccio le verdure e le cuocio a lungo nell'acqua, faccio una minestra e poi mi mangio il tutto, quei sali li recupero o li perdo comunque? I minerali sì, perché io recuperando il liquido, diciamo, di cottura riesco a recuperarlo. Quello che mi posso perdere sono altre molecole che possono cambiare la loro struttura col calore. Con le lunghe bollitture cambiano la struttura e non ha più la funzione molecolare che avrebbe all'origine. Quindi non è che mi mangio qualche cosa che non va bene, però qualcosina mi perdo di alcuni alimenti. Così come dicevo, è importante magari associare il condimento giusto. Se ho una molecola liposolubile, come può essere beta-carotene, licopene o insomma prodotti che contengono vitamine liposolubili, mettendo l'olio, no? Io preferibilmente a crudo, poi anche appunto l'olio, così come le altre, gli altri tipi di cibi, ha delle molecole che col calore si rovinano, detto banalmente, allora aumento l'assorbimento con questo grasso, perché associo il grasso veicola la molecola nel nostro corpo. Per altri, per cui anche lo stufare le verdure, mettere con poca acqua in una padella chiusa per poco tempo, quindi lasciarle croccanti, sicuramente meglio che non la bollitura, no? In questo senso. Poi ci sono altri tipi di vegetali che invece vanno assolutamente cotti, non so, possono essere i legumi per esempio. Il legume crudo non va assunto, perché lì invece ci sono molecole che non sono digeribili a crudo, e invece la cottura le inattiva e le rende inerti, e quindi fa sì che poi il prodotto possa essere digerito e quindi sfruttare tutte quelle le altre proprietà, come possono essere le proteine, nel suo caso la fibra, insomma tutto quello che contiene il legume di positivo. Così come altri prodotti invece possono avere degli allergeni, potenziali allergeni a crudo, che invece vengono inattivati dal calore. Pensiamo per esempio, non so, a certe solanacee, come possono essere magari il pomodoro. Io posso avere una lieve intolleranza oppure allergia, vabbè sono due cose diverse, ma diciamo una lieve allergia, no? Sensibilità a determinate molecole del pomodoro, che però con la cottura vengono inattivate e quindi non mi danno più una reazione, la reazione che mi darebbe a crudo. Il giorno dell'incontro al San Carlo c'era in distribuzione anche un opuscolo con vari consigli per la colazione e il pranzo degli studenti, ma anche per il buon vivere generale, tipo non mangiate davanti alla televisione perché mangiate troppo, non mangiate mentre studiate perché vi distraete. Un opuscolo curato da Lorella Vicari, nutrizionista dell'ASL di Pavia, e realizzato con Sovit, che leggiamo essere un'industria alimentare che cuoce i cibi sotto vuoto. Beh, siamo andati a cercarli entrambi e abbiamo chiesto a Lorella Vicari di dirci come si è trovata a scrivere questo opuscolo per la Fondazione Veronesi. All'inizio mi è stato chiesto, lavorando io nella ristorazione scolastica in particolare, di pensare ad uno strumento che potesse unire la ristorazione al mondo genitoriale, e quindi in quanto tale, siccome anche nel programma Guadagnare Salute del Ministero della Salute, anche la ristorazione collettiva e anche le aziende di ristorazione devono promuovere salute. E allora come promuovere salute? Creando uno strumento che fosse il trade union tra l'azienda, in questo caso Sovit, e i genitori. E quindi abbiamo creato questo opuscolo che spiega un attimino quali sono i principi, i criteri sui quali si costruisce un menù, e dà anche dei piccoli suggerimenti per continuare quella che è l'alimentazione da casa, anche da scuola, anche a casa. Perché ovviamente se il gioco, come diceva prima, è di squadra, si ottengono i migliori risultati. Dove sbagliamo come genitori molto spesso, visto che mancava questo gioco di squadra al punto da sentire l'esigenza di fare un piccolo opuscolo? Ma non è che si sbaglia come genitori, molto spesso il tran tran della vita quotidiana porta soprattutto le mamme a arrivare a casa ad un'ora tarda, e quindi la soluzione più semplice è aprire la confezione di prosciutto piuttosto che prendere il formaggio. Invece il fatto che io so che a scuola ho un menù vario, ho un menù che è improntato su quelli che sono quegli alimenti protettivi per i miei bambini, quindi la verdura c'è sempre, la frutta c'è sempre, il pesce, i legumi, mi permette poi a casa, attraverso l'opuscolo si danno delle indicazioni, di dire ok, anziché pensare al prosciutto, al formaggio, posso pensare anche a portare qualcos'altro, e quindi improntare la mia cena non soltanto su alimenti confezionati, ma anche su prodotti come può essere una zuppa, come può essere un piatto di pasta con i broccoli. Cioè, dà anche delle indicazioni mirate su se a scuola io mangio la pasta in bianco, per esempio, cosa che c'è in menù, perché è importante soddisfare anche quello che è il gusto dei bambini, non soltanto inserire quelli che sono alimenti protettivi per la loro salute, quindi la pasta in bianco la troviamo. Se quel giorno ho la pasta in bianco, la sera posso per esempio fare una zuppa. Lorella Vicari ha seguito e studiato lo sviluppo di Sovit, come dicevamo, un'azienda che lavora nel campo della ristorazione collettiva, con sede a Giussago, in provincia di Pavia, e qui si spiega il perché dell'ASL di Pavia, ed è la prima in Italia a proporre la cottura sottovuoto dei cibi. Con Lorella Vicari abbiamo incontrato Luca Bolfo, il presidente di Sovit. Cosa vuol dire cottura sottovuoto? Cioè, cosa accade qui in questo stabilimento in cui ci troviamo? È la cosa più semplice del mondo, è una cottura a bassa temperatura degli alimenti in un involucro che permette di preservare tutta la parte nutrizionale dell'alimento. Quindi abbiamo bassissima dispersione nell'ambiente dei succhi dell'alimento, sto pensando alle carni in particolare, dove il sottovuoto esprime la sua miglior performance, e abbiamo una cottura quindi a bassa temperatura per un tempo più prolungato della cottura tradizionale. Questo permette di rispettare l'alimento che si sta cuocendo. Due ricerche sulla cottura sottovuoto sono state condotte sempre a Pavia, ma non dall'ASL della Vicari, bensì dall'università. Una è stata fatta presso la facoltà di farmacia, l'altra presso quella di biotecnologie. E i risultati che ci illustra Bolfo sono molto interessanti. Molto interessanti in entrambi i casi. In uno particolarmente sorprendente, e cioè in biotecnologie, dove hanno preso una serie di volontari e li hanno alimentati con una zuppa cotta tradizionalmente e una zuppa cotta con il nostro sistema. E si è evidenziato che il picco glicemico nel secondo caso, cioè nell'alimentazione con la parte di zuppa cotta sottovuoto, si abbassava tantissimo nel soggetto preso in considerazione. Questo ha stupito sia loro che noi, perché non pensavamo avesse dei benefici addirittura sul picco glicemico, ed è una cosa che a noi fa molto piacere, perché trattando di fragilità alimentari sia adulte che bambini ci viene gioco facile presentare questo a chi di competenza. L'altro studio è stato fatto invece dalla farmacia, dove è stato analizzato praticamente il residuo proteico di tutta la parte nutritiva dell'alimento alla fine della cottura, dove è risultato quasi del 30-40% superiore nella cottura sottovuoto rispetto a una cottura tradizionale. Ma questo è anche logico, perché non si disperdono nell'ambiente i succhi dell'alimento, delle verdure, della carne o dell'alimento che si sta cuocendo, perché rimangono tutte all'interno dell'alimento grazie al know-how tra tempi e temperature a cui viene trattato l'alimento stesso. Quindi è molto interessante questo risultato finale, perché ci ha permesso di sdoganare in maniera scientifica la qualità della cottura sottovuoto, che esclude tassativamente qualsiasi tipo di aiuto chimico. Quindi in tutta l'azienda noi non abbiamo un grammo di prodotto chimico conservante, acidificante o qualsiasi esso sia coadiuvante alla cottura sottovuoto. Se lei guarda le nostre etichette, nel caso ad esempio delle carni, ci sono due ingredienti: la carne e sale, finita lì. Quindi è molto interessante, pur dando una vita residua al prodotto molto ampia, perché si parla di più di 21 giorni ovviamente con un legame refrigerato a 4 gradi. Quindi è un prodotto a tutti gli effetti fresco, cotto, finito in maniera estremamente naturale. Quindi da qua parte un lavorato a metà, diciamo, sì, che sì, poi sì, viene perfezionato sul luogo. Esattamente così, parte un semilavorato che viene ripreso dai nostri chef all'interno delle cucine e viene in alcuni casi finito, in alcuni casi trasformato, in alcuni casi addirittura migliorato per presentare il piatto finale al cliente. Abbiamo detto soprattutto scuole, quindi ospedali o comunque case di riposo. In che area lavorate in questo momento? Nord Italia, direi. Nord Italia. E nei luoghi in cui arriva il vostro prodotto semilavorato, chi lo riceve ha una formazione particolare per trattarlo? Certamente sì, c'è un programma aziendale interno di formazione, perché il prodotto di per sé è molto semplice da utilizzare, perché non presentando nessun tipo di conservanti, additivi, aggiunti, è un prodotto estremamente naturale, quindi basta non rovinarlo sul punto cucina. Bene, concludiamo qui questo nostro percorso, partito dal Collegio San Carlo di Milano e conclusosi nelle campagne della provincia di Pavia a Giussago con Sovit. Vi diamo appuntamento la prossima settimana alla stessa ora. A tutti voi l'augurio di un buon ascolto.